anche la Val di Susa o tutte le altre lotte che stiamo portando avanti in tutta Italia. E brevissimamente, per chi ancora non è completamente dentro questa storia delle discariche, 2007 la Corte di Giustizia Europea dichiara illegale il versamento del talquale nelle discariche. Sempre nel 2007 Riano, in particolare, adesso parliamo di Riano anche se noi siamo assolutamente contro tutte le discariche, Riano viene dichiarata un'area di continuità naturale. Nel 2009 la Colari, che è di proprietà di Manlio Cerroni, questo grande proprietario delle discariche di mezzo mondo, fa un progetto per la discarica Riano, che la Regione Lazio nel 2009 respinge proprio perché c'era Riano come area di continuità naturale. Nel 2011 la Regione Lazio con la Polverini fa uscire questi 7 siti idonei a discariche, di cui 2 sono proprio a Riano, che era stata respinta dalla Regione Lazio proprio nel 2009. Ci sono tanti motivi per cui Riano è assolutamente non idonea: la vicinanza con Asili Nido, il Parco di Veio che è un patrimonio naturale, e la vicinanza a 600 metri dalle prime case. Una cosa che non viene mai detta da giornali, ma insomma anche abbiamo fatto anche delle assemblee al Sant'Andrea, è a 6 km dall'ospedale Sant'Andrea, che tra gli altri ha un grandissimo reparto oncologico, e questo vi lascio comprendere che problema sarebbe per i degenti in quell'ospedale e anche per tutti quelli che lavorano nell'ospedale Sant'Andrea. 6 km sono pochissimi vicino a una discarica. E la Polverini, quindi, visto che i 600 metri dalle abitazioni era una condizione che poteva far rifiutare questo sito di Riano, a gennaio ha pensato bene di fare il nuovo piano dei rifiuti, dove ha rimosso i limiti di 600 metri, che sono diventati, mi sembra, intorno ai 1000, ma insomma non è importante, comunque più di quanto erano prima. Quindi loro fanno presto, insomma. Certo. C'è una condizione per cui una cosa non si può fare, io cambio la legge e me la faccio come mi pare a me, in modo che sono legittimato a continuare su questa strada. Quindi ha fatto abbastanza presto. Il problema è sempre la dichiarazione di stato di emergenza. Quando c'è uno stato di emergenza, le istituzioni sono autorizzate a creare delle deroghe, delle leggi, dei nuovi statuti, delle nuove leggi per ovviare alle cose che mettono dei limiti. E questa, diciamo, un po' la storia, senza andarci a dilungare. Adesso io ho sentito anche stamattina, insomma, che qualche compagna della radio diceva ci metteremo in collegamento con Riano, che può esultare. In questi giorni ci sono tante cose, si dicono sui giornali, insomma, questa esultazione devo chiarire che non è una vera e propria esultazione per noi. Diciamo, la notizia principale, che cosa c'è stato? C'è stato in questa settimana questo vertice al Ministero dell'Ambiente con Clini, noi eravamo tutti lì sotto a manifestare, abbiamo consegnato tutti i nostri dossier, i nostri ricorsi al ministro per un più attento esame, e lui lì con questo quartetto, Polverini, Alemano, Zingaretti e Pecoraro, ha, diciamo, velatamente dichiarato che, insomma, hanno fatto un lavoro veramente pessimo fino adesso, Pecoraro in particolare come prefetto e come commissario rispetto alla questione rifiuti, ha speso dei soldi pubblici per fare dei rilievi e delle cose assolutamente ininfluenti e inesistenti, che erano già state, insomma, dichiarate non idonee prima, per cui ha speso dei soldi pubblici. Non può chiaramente le istituzioni, un ministro non è che può dire a tutto questo team, presidente della regione, lo sappiamo bene, non è che possono dire pubblicamente siete degli inetti, ma praticamente ha chiesto di destituire Pecoraro dall'incarico di prefetto e quindi anche da commissario per la questione rifiuti. Questa possiamo esultare, insomma, al posto suo verrà il questore, probabilmente Fulvio Della Rocca, l'attuale questore di Venezia. Insomma, esultazione, può essere una presa di posizione, è tutto però ancora così, ancora i siti di Riano e anche di Corcolle, che è quella vicina a Villa Adriana, che è un altro sito, diciamo, di quelli a percentuale più alta di poter essere attuato, comunque sta di fatto che non sono stati ancora dichiarati non idonei. Giovedì prossimo, grandissimo appuntamento, il 22 davanti al Ministero dell'Ambiente per una grandissima manifestazione contro le discariche in tutta Italia. Ci teniamo a ribadire che noi non stiamo lottando per la discarica di Riano, ma assolutamente contro tutte le discariche. Senti, in tutto ciò non è stato, insomma, confermami o meno, non è stato però messo in discussione il piano discarico, comunque la creazione di nuove discariche da parte del governo, mi sembra di capire, nel senso quello che è stato detto è fino adesso si è lavorato male, adesso mettiamo altra gente, bravo. Però diciamo il progetto iniziale bravo. Ad ora non è molto cambiato, al di là esatto, dei siti. Bravissimo, hai colto esattamente il punto ed è per questo che non c'è questa grande esultazione, perché comunque la nostra lotta insieme a tutti i compagni di Corcolle, di tutti, insomma, ci sono 120 discariche in giro per l'Italia che stanno creando, insomma, veramente io ho seguito molto la questione della discarica già aperta e funzionante a Caserta, ci sono famiglie numerose, perché da quelle parti sono famiglie molto numerose, famiglie di 10 persone dove in 6 hanno gravissimi problemi, diciamo, si sono ammalati di tumore, c'è una percentuale di tumori ormai assolutamente plateale che arriva a sfiorare il 70%, insomma, diciamo che parliamo veramente di disastro della salute ambientale veramente a livelli altissimi. Questo è come se andassero in giro con una pistola a sparare alla gente, così è uguale, assolutamente uguale, perché uccidono intere famiglie, interi nuclei familiari. E no, non c'è da esultare sotto questo punto di vista. Adesso vedremo giovedì come si pronuncerà Clini dopo questo tavolo tecnico. Insomma, lui adesso ha semplicemente messo al di sopra di questo quartetto infame che sono Polverini, Alemanno, Pecoraro e Zingaretti, ha messo al di sopra di loro un suo tavolo tecnico che possa controllare bene tutte le carte, ma non è che ha detto, cioè un tavolo tecnico per vedere se questi 7 siti che erano stati dichiarati sono idonei o no, ma da quanto mi sembra di capire dai giornali stanno semplicemente cercando dei siti comunque per fare una discarica, non si parla di iniziare immediatamente una raccolta porta a porta, non si parla di fare un'educazione nelle scuole, cioè il problema qual è? È inutile che continuiamo a dire dove buttiamo i rifiuti, il problema è che dobbiamo cominciare a produrne di meno di questi rifiuti, capito? Cioè se non partiamo a monte, se non partiamo con un'educazione dei cittadini partendo dalle scuole, dicendo invece di andarti a comprare le fragole a gennaio vai a comprare la frutta di stagione, non la comprare scatolata, e questo insomma veramente non vorrei banalizzare e minimizzare, ma è il minimo che noi possiamo fare dentro le nostre case ogni giorno, ma questo discorso a livello di governo e di istituzioni non lo fa nessuno. Poi dopo abbiamo il problema di dove andare a buttare i rifiuti, è assurdo, è assolutamente assurdo, bisogna lavorare a monte, all'inizio. Poi adesso ci sono, chiaramente noi insieme a tutti gli altri comitati per i rifiuti diamo una serie di soluzioni immediate, le soluzioni immediate sono un po' come ha fatto la Campania, che per ora sta mandando i rifiuti in Olanda e in altri paesi europei, intanto per toglierli, perché ce l'hanno tonnellate, come devono fare? Per cui intanto li danno a loro che hanno gli strumenti necessari per dividerli e per utilizzarli come bene e come fonte di reddito, perché i rifiuti alla fine diventano una fonte di reddito, ma parallelamente hanno iniziato un grandissimo lavoro di porta a porta. In Campania sono già arrivati in alcune zone al 65% nel termine di pochi mesi. Quindi tutto questo è possibile, se c'è la volontà è possibile, e purtroppo da quello che dicevi tu non si sente ancora, neanche dal Ministero dell'Ambiente si sente una ferma volontà di iniziare immediatamente una raccolta porta a porta a Roma. È vergognoso che Roma non abbia ancora un'organizzazione di raccolta porta a porta. Sì, poi tra l'altro se si è riuscito a fare queste cose in una realtà come quella campana, che era capito, quella che era, esatto. Con tutto il rispetto credo che sia la più difficile in Italia, ma forse ma più che altro in Europa, perché c'è una Scusa, c'è una hanno un semplicissimo problema che si chiama camorra, diciamo, insomma, sì, ecco, che è un pochino più di noi, che aiuta, scusa, ecco. E che aiuta, certo, anche se certo, poi certo, insomma, anche noi non è che siamo esenti da quel tipo di fenomeno. Non ci facciamo mancare sui rifiuti, anche e soprattutto sui rifiuti. Anche sui rifiuti, non ci facciamo mancare niente, insomma. Però loro, insomma, cioè, voglio dire, la camorra ha distrutto un territorio in Campania per guadagnare 2 lire sugli introiti delle discariche. Hanno distrutto un territorio dove chiaramente c'è un'economia, lì era fortissimo il turismo, è stato distrutto un territorio che poteva portare una ricchezza di turismo, di lavoro, di tutto, no? Per cui, insomma, sono veramente delle cose folli, quello che succede in Italia è veramente folle. Assolutamente. Adele, siamo in chiusura, hai ricordato dimmi. Sì, ecco, no, è così, prima di chiudere poi certo, volevo dare gli appuntamenti. Abbiamo ricordato giovedì prossimo, ma ce n'è uno molto più ravvicinato che è per domani mattina, se non vado errato. Domani mattina, noi sempre, siccome noi, voglio ricordare a tutti che abbiamo istituito un presidio permanente, quindi giorno e notte, proprio davanti alle cave di Quadro Alto, organizzatissimo. Stanno arrivando tantissime persone da tantissime altre zone, c'è un gruppo di Fara Sabina che proprio attraverso Radio Onda Rossa ci ha contattato e ci stanno aiutando a fare i turni. Chiaramente noi siamo stanchissimi, come potete immaginare, e per cui ci serve veramente la solidarietà di tutti. Serve segnarsi ai presidi per la mattina, il pomeriggio e la sera. Invitiamo tutti a venire, insomma, al chilometro 7500 della Tiberina, quindi proprio vicino prima porta c'è l'entrata della cava di Quadro Alto, e lì c'è il nostro presidio permanente, si trovano sempre persone giorno e notte. E domani, con un comitato cittadini del comune di Morlupo, che è molto forte, il comitato rifiuti, ha organizzato una grande giornata con letture per l'ambiente, giochi per i bambini, animazione, spettacoli, incontri sportivi, insomma una giornata che partirà dalle 10:30 fino a sera, quindi una giornata di solidarietà e di aiuto, insomma, alla nostra lotta. Quindi questo è un appuntamento importante, però voglio anche ricordare che domani mattina c'è anche una manifestazione a Corcolle invece che l'altro sito, diciamo insieme a noi, dove vogliono fare la discarica. A Corcolle invece c'è una manifestazione proprio antidiscarica. Però il nostro appuntamento domani è a Quadro Alto, invito veramente tutti a partecipare, anche chi non può venire domani, comunque di venire al presidio, di venirci a trovare, di contattarci per aiutarci a fare i turni e per darci una mano. Benissimo, allora vi facciamo il nostro in bocca al lupo, vi auguriamo una buona giornata di lotte domani mattina, e poi, insomma, andremo a risentirci sicuramente la prossima settimana, entro il giovedì, quando ci sarà questa prima di giovedì, perché è importante, veramente l'appuntamento del 22 è veramente fondamentale che ci siamo tutti a farci sentire. E io, se posso dire, il nostro slogan sta diventando una bellissima frase di Brecht, che è: quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere. E quindi anche la nostra solidarietà ai NOTAV e a tutti quelli che stanno lottando per gli sgomberi delle case, a tutti quanti. E noi ci associamo a tutto questo, ovviamente. Grazie Adele, un abbraccio e a risentirci nei prossimi giorni. Allora, ti ringrazio, ciao caro. Ciao.